Possiamo partire con la nostra scuola? Molto volentieri. Tutti, io sono pronta. Pronti? Dai. Investire informati. Allora, una nuova sigletta che ci annuncia la partenza di una nuova iniziativa di Radio 24, nello specifico di Cuore e Denari. Da oggi partiamo con Investire Informati, un percorso che si snoderà lungo ogni giovedì, con il quale cercheremo di intrattenere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su temi che sono a loro e a noi, Nicoletta, molto cari, perché andiamo sempre e molto volentieri appunto a parlare di temi di risparmio e di strumenti per risparmiare. Ogni settimana una società o una organizzazione si alternerà al nostro microfono per aiutarci a capire le dinamiche, che sono spesso complesse, lo sappiamo, degli strumenti di investimento. Quindi ritorneremo su tutti gli argomenti: fondi di investimento, BOT, BTP, piani di accumulo, obbligazioni, conti di deposito, chi più ne ha più ne metta. All'inizio di questa rubrica non poteva che essere dedicato ad una ricorrenza che si celebra proprio oggi. 30 anni fa nasceva Assogestioni, l'organizzazione che raccoglie e rappresenta le società italiane di gestione del risparmio, quindi l'industria dei fondi comuni di investimento. Oggi a Milano è in programma un grande evento che si svolgerà in borsa italiana, e quindi ci sembrava interessante cominciare da qui il nostro percorso, con il quale andremo avanti per molte settimane, anche perché questo è un momento appunto molto delicato per il risparmio delle famiglie. Sono alle prese, come sappiamo, con grande difficoltà, si risparmia a fatica, abbiamo una tassazione che ci tormenta, per cui dobbiamo prestare molta attenzione a questi argomenti. Vi presento i nostri ospiti. Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno. Buon compleanno, glielo possiamo dire, anche se non è proprio il suo. Sì, ma lo sento un po' mio. È vero. Non abbiamo una torta, ma insomma ce l'abbiamo virtuale. Diciamo che purtroppo non ho 30 anni. Ecco, neanche noi purtroppo, però vabbè. Però mentalmente, ti devo dire, mentalmente sì. Che forse è meglio oggi che quando ne avevamo 30, insomma, abbiamo una maturità diversa. E benvenuto anche ad Alessandro Rota, direttore dell'ufficio studi di Assogestioni, benvenuto anche lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Autore del libro Breve storia dei fondi comuni in Italia. 30 anni, breve sì, però insomma è stata una storia intensa quella dei fondi italiani, Rota. Sì, direi di sì, molto lunga, oltre 30 anni, anche perché si gioca sempre sul fatto che i fondi italiani hanno 30 anni, in realtà nel mercato erano già presenti i fondi fin dalla fine degli anni 50, quindi è una cosa interessante. E allora poi io spulcerò nel sommario del libro per andare magari a ricordare i momenti salienti di questi 30 anni. Allora, naturalmente gli ascoltatori sono i nostri protagonisti di questo percorso. Questo spazio che oggi inauguriamo è fatto prima di tutto per rispondere alle vostre domande. Ci sono sempre le consuete modalità per interagire con noi. Potete chiamarci all'800 24 00 24 per le vostre domande in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666. Non appena ho pronunciato la parola fondi, già qualcuno scrive, parlate anche dei costi, delle commissioni. Vi faremo anche l'ABC su questo, naturalmente. Tutto. E allora, le curiosità appunto sono tante. Galli, io vorrei parlare proprio di questa giornata. In primo luogo, la celebrazione prevista per oggi, adesso poi a prescindere diciamo dal momento di festa, che cade anche in un mese in cui come dire, ormai si va tradizionalmente verso la celebrazione, qual è l'importanza di questo traguardo raggiunto per l'industria del risparmio gestito? Beh, gli anni, noi abbiamo accompagnato 30 anni di storia repubblicana, ma come si diceva prima, diciamo il mondo moderno evolve anche grazie al fatto che le famiglie risparmiano, e questo risparmio deve essere convogliato nei giusti investimenti, quindi deve essere diversificato, deve essere investito bene, perché alla fine è quello che ci consentirà di vivere meglio, soprattutto nella seconda parte della nostra vita. Mm-hmm. Quindi tutti noi risparmiamo perché abbiamo degli obiettivi, abbiamo l'obiettivo di lasciare dei soldi ai nostri cari, abbiamo l'obiettivo anche di spenderli un po' per noi stessi, abbiamo l'obiettivo di continuare a crescere anche in termini di formazione, educazione, certo, opportunità. Quindi tutti i paesi che crescono insieme a un'industria del risparmio gestito. Questo è vero per gli Stati Uniti, è vero per l'Inghilterra, è vero per l'Europa. L'Italia è arrivata a darsi una legge che regolasse i fondi, quindi che offrisse un prodotto affidabile, tutelato, che funziona in maniera solida, soltanto all'inizio degli anni 80, in particolare nell'84. Altri paesi europei ci sono arrivati un po' prima. Negli Stati Uniti tutto ciò nasce in realtà nel 29-30 in maniera regolata, e quindi noi abbiamo accelerato, abbiamo recuperato i tempi. In questi 30 anni ci siamo portati al passo con il resto del mondo, tant'è vero che oggi, con quasi 1600 miliardi di euro in gestione, abbiamo un fotografiamo una realtà per cui le famiglie italiane sono delle famiglie che hanno risparmiato tanto. Mm-hmm. Hanno risparmiato veramente tanto, lo vediamo anche rispetto ad altri paesi. Noi abbiamo sempre delle grosse debolezze, il debito pubblico, in alcuni casi le infrastrutture, esatto, il nostro sistema amministrativo, eccetera. Invece siamo dei grandi risparmiatori. Oh, vero. Infatti è stata anche una grande battaglia di governi precedenti, quella di cercare di far capire all'Europa che a fronte di un debito pubblico particolarmente elevato noi potevamo un po' anche compensarlo, se vogliamo, con lo stock invece di risparmio privato, che è piuttosto consistente. La nostra ricchezza, forse anche quella ricchezza grazie alla quale questo paese è riuscita ad affrontare e a parare un po' la dirompenza della crisi recente. Mi pare quindi una bella celebrazione. Esattamente, insomma. Direi di sì, un modo per tornare a fissare anche questi punti. Rota, mi stavo chiedendo prima, io siccome non me lo ricordo, non facevo ancora questo lavoro 30 anni fa, ma prima dei fondi di investimento in che cosa risparmiavano prevalentemente gli italiani? Titoli di Stato e basta? No, in depositi bancari sostanzialmente. In depositi bancari, sì, fondamentalmente. Sì, assolutamente. E poi ecco, come dire, la conoscenza dello strumento risparmio di investimento come è avvenuta nel tempo da parte dell'italiano? È entrata grazie dei pionieri, perché appunto la storia comincia prima dei fondi italiani, c'erano fondi esteri. Nel 1960, per esempio, il Banco Ambrosiano introduce in Italia alcuni fondi istituiti in Lussemburgo, e questo fa conoscere il prodotto alla clientela, ovviamente la clientela più sofisticata delle banche di allora, e questo introduce sostanzialmente questo prodotto nel nostro mercato, e sono stati veramente dei pionieri, se si pensa che poi appunto la legge è arrivata solo più di 20 anni dopo. Allora, volevo ricordare ai nostri ascoltatori, visto che si tratta di una scuola, ma naturalmente perché si fanno le interrogazioni. Certo, tu sei un po' la maestra. No, dai, in questo, prego. Dai, facciamo la maestra, il bidello, diamoci i ruoli e loro fanno i luminari, dai. No, a parte tutto questo, insomma, verso la fine della puntata volevo ricordarlo ai nostri ascoltatori, adesso andiamo in pausa, ma intanto fissatevi questo appuntamento, verso le 12:15 noi faremo una domanda per testare se la nostra prima lezione di oggi ha lasciato un segno. Naturalmente ai primi che risponderanno correttamente un libro della nostra biblioteca, ma direi che oggi possiamo regalare La breve storia dei fondi comuni in Italia, appunto, di Alessandro Rota. Ce lo lascia Rota, possiamo regalarne uno. Quindi insomma, prendetevi questo appuntamento alle 12:15 interrogazione, e poi tutto il mondo appunto del risparmio oggi a cuore denari con Investire Informati. Adesso diamo la parola al giornale radio. Direi di sì. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari, continuate a chiamarci all'800 24 0024 per le vostre domande in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, c'è anche l'hashtag Investire Informati con cui stiamo twittando questa mattina. Fatevi sentire, perché come sempre vogliamo rispondere alle vostre domande. Allora, avete scelto di investire in un fondo di investimento? Come vi siete convinti a farlo? Quali sono gli aspetti della dinamica di questo strumento di investimento che non vi sono chiari? Il fondo di investimento ha 30 anni di compie proprio oggi, per cui è uno strumento maturo, noi possiamo festeggiare, ma soprattutto appunto cogliamo l'occasione per tornare su questo tema, visto che la raccolta di questi strumenti è sempre molto consistente, anche quest'anno è stato un anno record, fra un po' ne parleremo. Allora 800 24 0024 è il nostro primo appuntamento della rubrica Investire Informati. Investire Informati. Con noi questa mattina Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, Alessandro Rota, direttore dell'ufficio studi di Assogestioni, oltre che autore, e anche autore, del libro Breve storia dei fondi comuni di investimento in Italia, di cui Galli lei ha curato la prefazione, se non mi ricordo male. Sì, ma la prefazione è giusto un indirizzo di saluto che ci stava naturalmente. Senta, andiamo un po' allo stato di salute di questo settore che da qualche anno a questa parte è particolarmente brillante. Abbiamo avuto dei momenti di calo della raccolta molto consistenti. Io ricordo con lei tante puntate in quei momenti particolarmente negativi per l'industria, perché ricordiamo le banche esercitavano sostanzialmente una politica commerciale differente per sostenersi di fronte alla crisi, raccoglievano denaro sul mercato e tra risparmiatori collocando obbligazioni e altri strumenti di investimento. Adesso invece la tendenza si sta, da almeno 3 anni a questa parte, ribaltando di nuovo. Quali sono i numeri al 4 dicembre del 2014 della raccolta? Beh, i numeri sono dei numeri davvero straordinari, nel senso che quest'anno abbiamo superato abbondantemente i 100 miliardi di euro di raccolta, finiremo l'anno probabilmente vicino ai 120 miliardi. Sono numeri per dare un'idea, per cui in Francia la raccolta è vicina allo zero da parte delle famiglie, e in Germania stiamo parlando di poche decine di miliardi di euro, un paese come la Germania che è una volta e mezza il nostro. e che ha un'economia ben più florida. Allora, è certamente vero che in parte è spiegato con la grande liquidità che hanno le banche, per cui le banche hanno puntato molto su portare invece la clientela verso un investimento più di lungo termine sui fondi. È anche vero che ci sono due elementi di lungo termine che spiegano un po' cosa sta succedendo. Tutti noi abbiamo esperienza, le nostre famiglie, i nostri genitori, in parte noi stessi, se avevamo dei risparmi, pensavamo in primo luogo cosa più facile dei titoli di Stato, cosa più impegnativa una casa, una seconda casa, una casa di vacanze, una casa da mettere a reddito. Ora, io direi che entrambi questi strumenti hanno mostrato dei limiti oggi per la prima volta. I titoli di Stato sappiamo che rendono meno del 2% a 10 anni. Il BTP a 10 anni, infatti. Quindi, clamorosamente, oggi lo Stato si può indebitare e non è più interessante, insomma, i bot sostanzialmente non ci danno nulla. Assolutamente, una volta pagata la commissione bancaria, addirittura i rendimenti sono negativi per gli strumenti a brevissimo termine. Le nostre famiglie hanno forse creato anche un pezzo del loro benessere sui bot. Dall'altra parte l'immobiliare, è la prima volta, uso di nuovo questa parola, della storia repubblicana, perché noi siamo diventati un paese benestante dopo la seconda guerra mondiale, è la prima volta dove il mercato immobiliare veramente ha mostrato le corde, ha corretto. Oggi è chiaro che non è così facile guadagnare affittando degli appartamenti, facendo questo tipo di operazioni. Quindi è naturale che le persone si interroghino e si dicano: io risparmio, perché molte famiglie italiane, nonostante le difficoltà, sono in grado di risparmiare, chi più chi meno, ma c'è questa capacità che è una nostra virtù. No, si consuma di meno, d'altronde dai consumi lo si vede, appunto. Ma comunque è una nostra virtù, perché anche altri consumano di meno, ma allo stesso tempo non risparmiano, consumano tutto, o comunque quello che hanno ne dispongono, ma no. Noi abbiamo questa virtù, è una virtù, certo. Riconosciamocela. Ma perché nel lungo termine è una virtù, certo. Nel senso che l'importante è che questi risparmi vengano convogliati verso investimenti diversificati che rendono, e quindi è chiaro che oggi rispetto al meno del 2% del BTP non è poi così difficile capire che se uno mette i propri soldi in un fondo ben diversificato può ottenere di più, ha una rischiosità contenuta, controllata. Quindi questa è un po' l'idea che ha spinto sia sul lato dell'offerta sia su quello della domanda a vedere questi numeri, e sono numeri davvero importanti. Infatti, Alessandro Rota, nella breve storia dei fondi comuni in Italia, appunto raccogliendo materiale per documentare la storia di questi strumenti di investimento nel nostro paese, quali sono i passaggi che l'hanno incuriosita di più, nei quali si è imbattuto appunto e ha trovato anche semmai degli aneddoti, delle storie divertenti, se vogliamo, comunque interessanti per... Beh, i passaggi più interessanti, e che spero siano quelli anche più interessanti nel libro che ho scritto, sono quelli che precedono la nascita dei fondi italiani, quindi gli anni 60 e 70. Sono interessanti perché era un'economia molto diversa da quella attuale. Per esempio gli anni 70 sono gli anni della repressione valutaria, quindi investire all'estero era praticamente impossibile, e i fondi avevano un ruolo in questo contesto. Oppure ancora negli anni 60, ho ricordato prima il pioneristico approccio del Banco Ambrosiano, ce ne furono altri, anche per esempio il Banco Napoli, ancora la famiglia Agnelli stessa, Colifi fece qualche sperimentazione anche nel settore, quindi sono notizie curiose, poi non si sono più ritrovate successivamente. E un'altra, qualche aneddoto che riguarda come è nata la legge sui fondi dell'83, in realtà se ne parlava dalla Costituzione, in Assemblea Costituente c'è un intervento di Tommaso Zerbi che chiede un emendamento all'articolo sul risparmio, l'articolo 47 della Costituzione, dove fa riferimento esplicito nel presentare l'emendamento all'istituto degli investment trust. Questo è interessantissimo, già nel 47 si pensava con quell'emendamento di stimolare, ci progettava già la nascita dei fondi. Diciamo che il risparmio degli italiani ha sempre fatto gola un po' a tutti i governi che si sono succeduti nella storia. Certamente, però l'idea di introdurre uno strumento tipicamente anglosassone, sconosciuto al diritto latino, era molto interessante. Certo. E poi insomma, ecco, la nascita, dicevamo, è una crescita molto consistente nel giro di poco, se andiamo a guardare, no, Rota? Oggi quante sono le società di gestione di risparmio che confezionano e poi attraverso intermediari appunto distribuiscono fondi di investimento in Italia? Quindi... Ci sono state diverse accelerazioni negli anni, diciamo, l'ultima accelerazione, quella diciamo degli ultimi 2-3 anni, ci ha portato a un ammontare circa 660 miliardi di euro, distribuito su 200 e rotti società, comprese le SICAV. Sostanzialmente sono 43 i gruppi di gestione che noi censiamo sul mercato. Fate conto che i fondi oggi rappresentano circa il 40% del PIL in termini di misura, diciamo, comparativa. Io sono stata molto attenta a non citare una parola nel corso delle nostre ultime considerazioni, perché vuole essere adesso l'oggetto del nostro quizzettone, domandona, chiamiamolo interrogazione. Ce ne sarà sempre uno negli appuntamenti di Investire Informati. Adesso avete circa 10 minuti di tempo per darci una risposta all'800 24 00 24, e naturalmente alla prima risposta corretta regaleremo una copia del libro di Alessandro Rota. Chiaramente rischia tutto. Alessandro Rota, ce la fa lei la domanda per il nostro per i nostri ascoltatori che vorranno cimentarsi nella risposta? È semplicissima: quanti anni compie a suggestioni l'Associazione del Risparmio Gestito? E allora 800 24 00 24, intanto che vi candidate per rispondere al quizzettone andiamo alle altre domande sul tema del risparmio gestito. Abbiamo Ines che ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Grazie. Io volevo fare questa domanda. Visto il momento un po' in cui le borse già sono salite, eccetera, è ancora opportuno investire, tentare qualcosa sull'azionario puro, oppure meglio un flessibile con una parte di azionario, ed eventualmente in quale settore? Allora, Ines, intanto le devo dire che noi non possiamo dare suggerimenti di investimento così specifici come lei ci chiede, perché altrimenti, come racconto molto altre volte, arriva l'ufficio legale del Sole 24 Ore e mi ci senti un po'. La porta via. Però possiamo darle degli strumenti per, insomma, in relazione ad un determinato momento di mercato, come ci muoviamo anche col fondo di investimento. È una domanda che ha senso, dottor Galli, che cosa dice? Insomma, effettivamente quando la borsa cresce molto anche il fondo avrà fatto una prestazione, se c'è stato un buon gestore, altrettanto consistente, e quindi insomma è il caso di riposizionarsi lì? La parola riposizionarsi è bisogna intendersi cosa intendiamo. L'importante è investire sempre, quindi non entrare nel mercato in un certo momento, ma nel tempo mantenere l'investimento, aggiungere, se si hanno risparmi, aggiungere sempre, in qualsiasi momento si può entrare in borsa, sul mercato obbligazionario. La logica non deve essere quella di cogliere il momento, come se si scommettesse su qualcosa, esatto, ma quella di dire: io ho una certa età, voglio usare questi soldi tra un certo periodo di tempo, quindi una certa componente azionaria è più che ragionevole. La nostra ascoltatrice deve pensare, rispetto a tutti i suoi risparmi, come sono allocati, in quali mercati sono stati messi, se ha senso mantenere quella certa proporzione oppure no. Dipende quando vorrà usare quei soldi. Certamente non è possibile per nessuno. Nessuno sa se l'anno prossimo i mercati azionari saliranno ancora, correggeranno. Ma non è importante, perché se io ho un obiettivo di investimento nel medio termine, 15 anni di certamente una componente dei miei investimenti deve stare sul mercato azionario. Non mi preoccuperei veramente dei settori, preferirei qualcosa di diversificato, perché o io sono professionalmente molto molto competente e voglio fare un ragionamento così specifico, oppure già l'allocazione tra obbligazionario e azionario è assolutamente accettabile, è ragionevole. Diversificare bene, se non si vuole nemmeno fare questa scelta, prendere dei prodotti che in qualche modo mettono insieme, come accennava anche la nostra ascoltatrice, prodotti flessibili che sono costruiti in maniera tale da dare un rischio rendimento che è una media di diversi mercati, e in questo caso questi sono i prodotti che hanno avuto più successo negli ultimi anni. Infatti, perché in un certo senso sono costruiti anche con un pagamento di una cedola, quindi ricordano un po' il funzionamento di un titolo di Stato. Questi prodotti funzionano in maniera tale per cui l'investimento sottostante è diversificato, anche se i mercati salgono e scendono un po' riequilibrandosi, la cedola viene comunque corrisposta al risparmiatore. Ovviamente la regola aurea dell'investimento è quello di investire costantemente, quindi non buttarsi in un momento e uscire in un altro momento senza aver pianificato la cosa, ma possibilmente investire le cifre mese per mese, costantemente, e così come quando si vuole disinvestire cercare di farlo in questa maniera ordinata, e diversificare, quindi non pensare che c'è il cavallo su cui puntare, ma si compra una squadra delle corse tutte insieme, e quindi ci sono molti cavalli, perché sono tutti dei buoni cavalli e si gioca tutti. Infatti Ines diceva adesso che le borse sono salite molto, certamente se si fa una adeguata diversificazione territoriale probabilmente riscontrerà, Ines, che non tutte le borse sono salite nella stessa misura. Wall Street sui suoi massimi storici, ma a guardare altre piazze a livello internazionale sicuramente non ci saranno altre piazze, appunto, che hanno raggiunto queste performance. E tra l'altro, sul tema della diversificazione, mi chiedevo, Alessandro Rota, proprio lei che ha studiato così a fondo la storia appunto dei fondi comuni, da quando quando sono stati introdotti in Italia, secondo lei sono serviti a far comprendere al risparmiatore italiano l'importanza della diversificazione, visto che prima c'era questa rigidità, titoli di Stato, immobili? Insomma, come è stata culturalmente introdotta anche questa novità? È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, potrei riassumere, nel senso che all'inizio effettivamente ci furono degli episodi che vengono raccontati abbastanza nel dettaglio, in cui ci fu appunto la corsa a puntare sul cavallo vincente, e ci furono anche quindi degli episodi di recessione anche nell'ambito del nostro settore. Questo è interessante. E piano piano si imparò questa cosa. Tra l'altro, riferendomi anche a quanto detto prima sull'investire sempre, una delle formule più interessanti che comparsero negli anni 60 e che poi portarono alla nascita delle reti di promotori, Fideuram, Dival e tutte le altre, fu proprio l'idea del piano di accumulo del capitale. Era un'idea innovativa a quel tempo, e questo per esempio aiutò molti a resistere anche ai rovesci dei mercati. Infatti. Allora, direi di sentire adesso Marco, perché introduce un tema molto importante. Marco, buongiorno, bravo. A lui regaliamo il libro, anche se non ha risposto al nostro quizzettone. Va bene. Marco, ci dica. Buongiorno a tutti. Dunque, va bene parlare di risparmio, anche se incentivato anche dalla nostra Costituzione, almeno a parole, però come potremmo metterci al riparo col nostro risparmio qualora le famose voci ventilate già quest'estate, ma che si riferiscono per esempio alla situazione di Cipro, tanto per non parlare, di eventuali prelievi forzosi sui conti che poi non si sa quali possono essere, se sono solo conti correnti o conti di altro genere. Ecco, allora, questa sarebbe la mia domanda. Patrimoniale, prelievo forzoso. Guardi Marco, secondo me lei non si deve preoccupare, perché siccome ce lo stanno già facendo da 3 anni quasi in silenzio, io non penso che avranno la tentazione di farne uno così clamoroso, tipo prelievo come fece Amata appunto qualche anno fa in una notte a sorpresa. Credo che abbiamo scongiurato questo punto minimo di una crisi dirompente, Galli. Sono convinto che l'Italia è stata in altri momenti sull'orlo, e forse il sistema politico ha anche giocato un po' con questa idea. Oggi non lo vedo come una possibilità. È vero che purtroppo il sistema politico italiano guarda alla capacità di risparmio degli italiani a volte come guarda a tutte le nostre capacità di reddito, come anche se fossimo tutti speculatori, e quindi è un po' come un'occasione per mantenere. Quindi noi lavoriamo molto su questo fronte per cercare di far comprendere che quello che noi risparmiamo è qualcosa che è già stato tassato, perché noi abbiamo già pagato le imposte sul reddito, a questo punto è già qualcosa di tassato che noi mettiamo da parte e che ha comunque un impatto produttivo anche sulla nostra economia. Quindi laddove si va a tassare pesantemente il risparmio si hanno sempre degli effetti molto negativi. Innanzitutto si scoraggiano gli investimenti dall'estero, perché nessuno vuole entrare in un paese in cui si prendono delle decisioni random, no? Dove non c'è mai certezza casuale della legge su questo tema. Quindi la stella polare anche nei nostri rapporti col mondo politico è quello di far comprendere esattamente che le decisioni prese nell'estemporaneità sono delle decisioni che creano soltanto danni all'economia, alle persone. I ragionamenti devono essere fatti razionalmente, ci deve essere grande stabilità nel sistema, il risparmio fiorisce, cresce laddove il sistema è stabile, dove c'è tranquillità, consapevolezza. Ora, noi italiani ovviamente siamo persone abituate a distinguere in qualche modo, come dire, quello che appare, quello che è più concreto, profondo, altrimenti ci saremmo dovuti soltanto 2 o 3 anni fa spaventare molto, perché si parla di Cipro, ecco, noi non siamo Cipro, siamo ben un'altra economia con un'altra solidità, e oggi siamo a tutti gli effetti sicuramente su un percorso molto diverso. Nonostante non cresciamo, comunque non abbiamo questo tipo di preoccupazione. Ecco, però a Marco vorrei anche ricordare appunto che interventi sulla tassazione, sul risparmio degli italiani negli ultimi 3 anni ce ne sono stati, per cui speriamo appunto che non si abbia la tentazione di ulteriori interventi, perché sarebbe dell'incredibile. Assolutamente, ma non credo che pagherebbe politicamente nessuno cercare di aumentare delle aliquote. Certo, è stata rimodulata la tassazione sulle rendite, ricordiamo, e poi c'è l'imposta di bollo a fine anno, appunto, che è stata quella veramente più è vero, infatti purtroppo una decisione secondo me che non va nel migliore interesse anche della crescita economica, questa sulla tassazione dei fondi pensione. Ma teniamo conto che comunque i nostri fondi pensione, per chi ancora dovesse prendere questa decisione, ci rifletta, perché i nostri fondi pensione, la nostra tassazione è di estremo vantaggio nel momento della rendita. Quindi noi oggi possiamo mettere da parte un pezzo del nostro TFR, un pezzo del contributo anche col datore di lavoro. Quei soldi sono comunque tassati nella fase di accumulo meno della tassazione ordinaria, sì. E nel momento in cui ci viene erogata una rendita, ci vengono dati quei soldi una volta che andiamo in pensione, c'è una tassazione di estremo vantaggio, che si scende quasi al 9, si scende al 9 al limite, quindi capiamo che oggi se io lavoro vengo tassato al 43 e invece la rendita è al 9, quindi è un ragionamento che dobbiamo tenere aperto perché comunque rimane. Esatto, diciamo che in trasmissioni fatte nelle settimane passate proprio su questo argomento, sì, abbiamo la risposta al quizzettone, effettivamente anche con esperti del tema della previdenza complementare ci hanno detto che non è una riorganizzazione del risparmio sul fondo pensione che modifica la scelta di fondo dell'Italia, però certo che se tu hai... È un segnale. Esatto, un segnale. Se hai così la sensazione che però ogni tanto il governo possa intervenire, magari un pochino ci rifletti un po' di più prima di fare uno strumento di previdenza integrativa. Allora, stiamo andando verso la conclusione, puntata volata letteralmente. Prendiamo Anna. Prendiamo Anna, ci chiama dalla provincia di Alessandria, benvenuta. Allora, guardi, Alessandro Rotta che oggi fa il co-conduttore con noi, rifà la domanda. Sì, quanti anni compie Assogestioni l'associazione del risparmio gestito? La risposta è? Anna? 30. Esatto. Bravissima Anna. Non vede l'ora di leggerlo il libro, vero Anna? Sì, grazie. Lo mandiamo. Ha qualche domanda anche sull'argomento, ma in realtà non abbiamo tempo. Scriveteci le vostre domande. Se ha tempo e se ha modo, il nostro ospite oggi alle 5 in borsa. Esatto, da Alessandria ce la fa al pomeriggio velocemente a raggiungere Milano? No, oggi no. Comunque, grazie dalla compagnia che ci fa tutti i giorni. Grazie Anna. Allora, avremmo voluto parlare di tanti altri argomenti, la quotazione dei fondi comuni di investimento a partire da gennaio, tema caldissimo, ne parleremo in una delle prossime puntate di Investire Informati. Ricordiamo che Enrico da Bosco Reale e invece Maria da Napoli devono scriverci a Cuore Denari perché hanno indovinato la sequenza del professor Iannocci. Oggi bravissimi. Alba Ruota a casa Radio Naso, pace rese raso. Brava, e invece Maria ha indovinato le parole con la R. Grazie ad Alessandro Rota, Fabio Galli. Grazie a voi. Buon compleanno per oggi pomeriggio, anche se non è il vostro. Lasciateci un pezzettino di torta, noi torniamo assolutamente domani insieme a voi. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Cuore e denari.